24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Vertice europeo, la Merkel è scettica sulle soluzioni alla crisi dell'euro. La cancelliera: non esiste una soluzione facile e veloce. Il presidente francese François Hollande appoggia l'Italia e aiuterà Monti sull'ipotesi di utilizzare il fondo salva stati europeo anti-spread. Le borse sono ottimiste, Piazza Affari sale del 2,6%. Il ministro Passera a Radio 24, l'euro non crollerà. E il premier spagnolo Mariano Rajoy annuncia: non potremo continuare a finanziarci con questi tassi di mercato. Calcio, Unione pronta a contrastare le partite truccate e stasera agli europei si gioca la semifinale Italia-Germania. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Ieri sera a Parigi c'è stato un incontro tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande in vista del vertice Salva Euro che inizia oggi a Bruxelles. La Merkel è scettica sulla possibilità di arrivare a una soluzione sulla crisi. Non mi faccio illusioni, ha detto, mi aspetto discussioni controverse e se non tutti, molti occhi saranno puntati ancora una volta sulla Germania. Poi ha attaccato gli Eurobond definendoli economicamente controproducenti. Difficilissimo fare pronostici, non lo sanno neppure loro i 27 leader europei. E soprattutto i 17 dell'Eurozona, come e quando si accorderanno per rifondare l'Unione Monetaria. Intanto tutte le delegazioni hanno fissato l'albergo anche per la notte di sabato. Il problema è questo: potranno presentarsi lunedì mattina all'apertura dei mercati senza dire una parola sulla difesa dei titoli italiani e spagnoli? Oppure non aver deciso sul sostegno delle banche al tracollo senza appesantire il già pesantissimo debito degli stati allo sbaraglio finanziario? Naturalmente no. Ma questo teme possa accadere Mario Monti e con lui il premier spagnolo Rajoy e il presidente francese Hollande. Qualche apertura c'è, ben inteso, ma per ora indistinta, piuttosto vaga. Quando parla la cancelliera Merkel è sempre una doccia gelata. Forse se si attenuasse la pressione sugli eurobond, la Germania potrebbe accettare una certa flessibilità sull'acquisto di titoli pubblici da parte del fondo anticrisi per alleviare gli spread. Ma il problema vero è a quali condizioni va commissariata anche l'Italia, allora è proprio quello che Monti vuole evitare. Poi c'è il capitolo Unione Bancaria, con la vigilanza più accentrata a livello europeo, poteri alla BCE di Draghi, integrazione stretta delle politiche di bilancio con poteri effettivi di modifica delle finanziarie nazionali. C'è il sistema europeo di garanzia dei depositi bancari e quello per gestire il fallimento delle banche. Insomma, si deve costruire quasi un altro mondo. Tutto questo in 48 ore. Antonio Polo Salimbeni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. L'Italia ha il pieno appoggio politico della Francia e il presidente François Hollande aiuterà il premier Mario Monti sulle soluzioni per uscire dalla crisi, inclusa l'ipotesi di utilizzare il fondo salva stati europeo per un meccanismo di stabilizzazione degli spread a favore dei paesi più virtuosi. E il premier spagnolo Mariano Rajoy ha detto che il suo paese non potrà continuare a lungo a finanziarsi ai tassi attuali di mercato. Ricordiamo che sabato Radio 24 trasmetterà uno speciale sul dietro le quinte del vertice a cura di Sergio Nava. In Europa ieri borse tutte in positivo in attesa del vertice. Piazza Affari è stata la migliore. Il FTSE MIB ha guadagnato il 2,58%. L'attesa per il Consiglio europeo, chiamato a varare misure per la crescita e per mettere in sicurezza i debiti pubblici, ha riportato acquisti sulle borse dopo alcune giornate difficili. Londra, Parigi e Francoforte hanno guadagnato 1,5% e Milano ha fatto anche meglio col FTSE MIB che ha chiuso a più 2,58% e il FTSE All Share a più 2,42%. Gli acquisti hanno riguardato soprattutto il settore bancario, che arrivava da pesanti flessioni nelle ultime sedute. Unicredit in particolare è salita del 4,7% dopo l'annuncio che il fondo Pamplona si è portato al 5% del capitale, diventando il secondo azionista del gruppo. Segno più anche per Monte dei Paschi, più 0,5%, che dopo aver perso 12% nelle ultime due sedute ha provato un timido rimbalzo nel giorno della presentazione del piano industriale e dopo aver chiesto aiuti governativi per quasi 4 miliardi di euro. Bene anche Saipem, più 6,2%, grazie all'annuncio di contratti per 1,5 miliardi di dollari negli ultimi due giorni. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Focus Economia è intervenuto ieri il ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, che ha espresso ottimismo sul futuro dell'euro. Nessuna persona responsabile né in Germania né in nessun'altra parte dell'Eurozona, dell'Europa, possa augurarsi che l'euro vada in difficoltà o addirittura venga meno. Secondo me la probabilità che questo avvenga è pari a zero. Anche in Germania c'è un dibattito aperto, perché una grande parte della fortuna e del buon lavoro che la Germania ha fatto al suo interno è dovuta anche al fatto che ci fosse l'euro, e buona parte delle esportazioni tedesche vanno nell'Eurozona e comunque nell'Unione Europea. Quindi nessuno può pensare di salvarsi da solo e nessuno può pensare di salvarsi a carico e a costo degli altri. La Grecia sicuramente deve fare la sua parte del lavoro, come tutti i paesi, Italia compresa, ed è la ragione della nostra grandissima attenzione al rigore dei conti, senza il quale non si può parlare di crescita. Però anche le ultime elezioni in Grecia dimostrano chiaramente che viene chiesto all'Europa una mano, e l'Europa deve darla per assicurare che la Grecia superi questo momento di difficoltà. Non si può dire la Grecia vada e si salva il resto. A mio parere l'euro andrà avanti sicuramente, e sarebbe un gravissimo errore lasciare andare in difficoltà un paese che a quel punto non andrebbe in difficoltà soltanto dal punto di vista economico, ma potrebbe andare anche dal punto di vista sociale e poi democratico e istituzionale. La Commissione europea ha presentato la propria comunicazione su una strategia europea per le cosiddette Key Enabling Technologies, le tecnologie abilitanti innovative, ovvero quelle tecnologie che presentano un ruolo chiave per lo sviluppo di nuovi beni e servizi in numerosi settori. Ora una notizia di alto valore simbolico per due importanti paesi dell'Unione. Ieri in Irlanda c'è stata la storica stretta di mano tra la regina Elisabetta e Martin McGuinness, ex leader dell'IRA, l'esercito repubblicano irlandese. McGuinness oggi vice premier della provincia nord irlandese. Un incontro breve è avvenuto a Belfast, al Teatro Lirico, dove c'era un evento legato alla visita della regina in Irlanda del Nord. Si sono stretti brevemente la mano. Martin McGuinness, che lo ricordiamo, è stato il comandante della brigata di Londonderry dell'IRA, una delle più attive negli anni dei Troubles, cioè negli anni 70 e fino a metà degli anni 80, prima della sua uscita dalla prima linea per entrare nel potere politico dell'organizzazione, cioè lo Sinn Féin. Bene, Martin McGuinness ha salutato la regina dicendole buongiorno e Dio la benedica in irlandese. La vicenda nordirlandese ha avuto episodi di progressiva, come dire, uscita dal momento di massima tensione, dal conflitto, verso la pace per fasi, e questo è senz'altro un passaggio molto molto importante dal punto di vista simbolico. La quota di mercato di marijuana aumenta in Europa a scapito di quella di hashish, ma la novità è che l'Europa non è solo un grande consumatore di erba, ma ormai è anche un importante produttore di questa sostanza illegale. 29 paesi su 30 hanno coltivazioni sul proprio territorio. È quanto emerge da un'analisi dell'Osservatorio Europeo sulle droghe di Lisbona in occasione della Giornata Mondiale contro la droga. Ora al cinema, La grande bellezza è il titolo del film che Paolo Sorrentino inizierà a girare interamente a Roma il prossimo agosto e che vede come attori protagonisti Tony Servillo, Carlo Verdone e Sabrina Ferilli. La pellicola è una delle 17 finanziate con 5 milioni e mezzo di euro da Eurimage, organismo del Consiglio d'Europa creato per sostenere le coproduzioni europee. E parliamo di calcio in chiusura. Le partite truccate sono una minaccia per l'integrità dello sport e l'Unione è pronta a fare la sua parte per contrastare il fenomeno, mettendo in capo le agenzie europee specializzate nella lotta anticrimine, Europol ed Eurojust. Lo ha detto il commissario per l'istruzione e la cultura, Andreula Vassiliu, durante un evento sul gioco d'azzardo organizzato al Parlamento europeo. E per il calcio giocato oggi c'è Italia-Germania, replica della semifinale dei mondiali 2006. In quell'occasione Grosso e Del Piero portarono gli azzurri in finale. Questa volta però sarà più difficile. Le quote SNAI vedono infatti favorita la nazionale tedesca, quotata 1,45, mentre per l'Italia la quota è 2,55. Andrea Pirlo dice la verità, i tedeschi hanno paura. Li vedi così solidi, alti e grossi, li vedi segnare come macchinette, sembrano inattaccabili. Eppure la storia insegna che noi abbiamo le chiavi del loro cuore. Tanti anni fa gli abbiamo messo addosso un sacco di dubbi. Qualche volta ci hanno anche battuti, ma mai quando contava davvero. Siamo andati a portargli via l'osso dalla loro storica fossa dei leoni, quella di Dortmund nel 2006. Normale che adesso parlino di conti da regolare. Sono forti, fortissimi e giovani. Una nazionale con un grande futuro. Quella che Prandelli sta cercando di costruire per la nostra, rovesciandole la mentalità come un guanto. Dopo aver preso a schiaffi in Inghilterra, la fiducia è alta. Pirlo, che è il pilota azzurro, dice che siamo qui per vincere e che nulla è stato ancora fatto. Prandelli aggiunge che alla Germania salteremo addosso con il gioco perché è inutile accucciarsi e soffrire. Belle dichiarazioni di intenti, quello che ci vuole. Stasera, recuperati i malconci De Rossi, Abate e Chiellini, vedremo se sarà possibile passare dal regno della fantasia a quello del campo. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per 24 Ore in Europa. Un saluto da Filippo Aureggi, regia tecnica, e da Paolo Pancena in studio. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.